Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua. Lascio che all'arrivo dei miei sensi sarai tu ad aprire. Come basta poco, dopo troppo, riascoltare il canto. Tira fuori me quello che ho lasciato dentro. Ho lasciato riposare l'infettiva gelosia, che tu con un sorriso che non pensa hai risvegliato in me. Troppo tempo senza mai sentire mai. Lo stomaco che chiude, che non chiede nulla a parte te. E ritorno ad amare con te. E mi sento sincero. Tanto da parlarti di me. Tanto per parlare di me. Io ritorno ad amare. Ore, fermo ad aspettare. Orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare. Nascere e morire in te come fa da sempre il sole. Il sole. Voglio viverti per come sei. E fino all'ultimo momento penserò che sia per sempre. Stammi dentro e non sentirti stretta mai. E così basta un giorno per te. Per dirmi certe parole. Io che credo che nell'amore il tempo è il danno peggiore. Io ritorno ad amare. Ore solo ad aspettare. Orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare. Nascere e morire in te come fa da sempre il sole. Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua. E lascio che al risveglio dei miei sensi sarai tu a sentire. Da come basta poco, dopo troppo, di ascoltare il canto. Sto tornando, io sto tornando ad amare.